al mondo ormai lo so, pensare vano, ahimè. La testa fa campare un pidocchio e niente più. Nella vita d'oggi l'uomo navigar non sa, l'uomo non sa capire quello che non va. Se pensa di andar su, che avviene ormai lo so, farà un balzetto in alto, poi cadrà a testa in giù. Per la vita d'oggi non va bene la bontà, l'uomo che pensa al bello si rovinerà. Fortuna e vanità insegui sempre tu, le gambe sono corte, la fortuna scapperà. Niente più modestia nella vita d'oggi di l'uomo e le sue illusioni crepano così.